Giovedì 15 ottobre 2015, 87.9, la modulazione di frequenza Radio Onda Rossa da 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Ognuno e ognuna di voi può contribuire a farla vivere, uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volsci 56, 00185, Roma. Oppure consultando il sito internet della radio, che è ondarossa.info, sull'home page c'è sostieni per le modalità telematiche di sottoscrizione. Siamo all'appuntamento con il cinema, visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni sulla scaletta di quest'oggi e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio, la voce trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, e per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete ascoltarci in diretta a 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming sull'home page c'è ascolta la diretta. Siamo in compagnia di Silvana Cirillo per parlare della presentazione del libro Zavattini e la radio, che si svolgerà alla fondazione dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico lunedì 19 ottobre. Giusto, Silvana? Sì, sì, alle 17.30, diciamo anche 18 per i romani pigri. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa, Silvana. Grazie, ben trovati. Un titolo che è tutto un programma per un'emittente come la nostra, Zavattini e la radio. Raccontaci un po' di questa storia, Silvana. Bellissimo, è difficile raccontare della storia della RAI o di qualunque altra attività di Zavattini, perché lo sappiamo tutti, era un vulcano, ma c'è da dire che anche in questa attività, come in tutte le altre, no? La sua scrittura, la pittura, il giornalismo, Zavattini è all'avanguardia. Dunque viene immediatamente chiamato a lavorare all'EIAR, alla CETRA, e viene chiamato a lavorare addirittura negli anni 30, ma era già un personaggio, insomma, era un direttore di giornali, eccetera. Viene chiamato come umorista. Quindi il primo Zavattini radiofonico è lo Zavattini che inventa per Motta il Mottarello. Lo Zavattini che addirittura introduce i rumori. Insomma, diciamo forse fra i primi rumoristi, ma subito viene bloccato perché non era concepito, no? Quindi censurato, fa il giornale umoristico radiofonico e così via. Poi che possiamo dire? Possiamo dire che poi comincia a diventare famoso, e allora negli anni 50 mandano in onda i suoi diciamo tranche dei suoi libri, per esempio I poveri sono matti, ma anche questo, guarda caso, incappa in un certo senso un po' di censura, perché lo sappiamo, Zavattini era un polemico, era un avanguardista, era insomma, difendeva la libertà di espressione. Quindi questi poveri sono matti che si ribellavano, che davano uno schiaffo così ideale al proprio capufficio, che erano dei piccoli omini, insomma, non si digerivano facilmente, no? In un'Italia che voleva rinascere. E poi, ma c'è tanto ancora da dire, poi però arriviamo allo scalpore degli anni 70, la famosa trasmissione inventata proprio da Zavattini, Voi ed io, punto e a capo, del 76, e fu una trasmissione strepitosa, amata e odiata insieme, perché era un po' demenziale, molto libera, molto sciolta, molto chiacchierona, e ospitava la signora Ciccioni, Franca Valeri, ospitava Monica Vitti, ospitava Tonino Guerra, che ci parlava delle sue superstizioni, per cui ogni mese, il 10 di ogni mese, doveva andare in Russia perché sennò si sentiva sfortunato, insomma. E fu, io penso che lo ricordi anche tu, no? Che fu una sorpresa, e quando Zavattini, proprio in piena trasmissione, disse la famosa parolaccia, no? Sì. La vogliamo ripetere? No, non la possiamo proprio ripetere, ma immagina, no? L'organo maschile così spiattellato e allibì tutti. In quel momento c'era in regia, indovina, incredibile, non ci penseremmo mai, il giovanissimo Grillo, che adesso sappiamo quello che dice, era molto timoroso. Ti posso leggere la frasetta che gli diceva Zavattini? Come no? Caro Grillo, scusami caro, ma un po' per la tua natura preoccupazionale, un po' perché mi rappresenti qui l'azienda, ma tu mi dici sempre di no. Doveva lottare anche in casa, però poi ha vinto, perché nonostante tutte le polemiche che sono cresciute attorno a questa parolaccia, il pubblico volle Zavattini. Guarda, senti, ti leggo quest'altra piccola frasetta, perché Zavattini bisogna ascoltarlo per capirlo. Non si tratta di una parte del nostro corpo sconcia, ma di così alta funzione che suppongo sia stata creata addirittura prima del sole e prima della luna. Quando ti dice questo, che cosa puoi ribattergli? Senti Silvana, per i più giovani ricordiamo anche cosa ha rappresentato per il mondo cinematografico Zavattini. Ah certo, ha rappresentato, diciamo che lui è ritenuto il maestro, no, del neorealismo. Il maestro del neorealismo, perché con De Sica hanno portato il neorealismo, parliamo di Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano, La Ciociara, in tutto il mondo, no? Sono stati forse i più amati e anche contrastati rappresentanti di questo fenomeno. Ma bisogna, per capire il neorealismo di Zavattini, bisogna capire una cosa fondamentale, che lui nella realtà vedeva il meraviglioso, diceva sempre il banale non esiste, quindi non è la realtà sicuramente dei poveri, la realtà che cerca di arrancare, ma anche la realtà piena di poesia. Basta ripensare a Ladri di biciclette, no, che è stato poi il primo in classifica per anni e anni a livello mondiale, con questo padre e questo bimbo che vanno in bicicletta per tutta Roma, e questa bicicletta rappresenta la salvezza, no? Sì. E poi ecco, dunque Zavattini, non solo, ma una cosa che mi viene in mente adesso, forse non tutti sanno, che è stato considerato proprio dagli scrittori sudamericani, diciamo visionari, e da tutto il cinema sudamericano degli anni che nasceva, negli anni 50-60, è stato considerato proprio il vero maestro. Mm-hmm. Pensa che a Cuba, nel centro sperimentale di cinema che equivale al nostro, la piazza principale si chiama ZA e l'ha inaugurata chi? Il premio Nobel della letteratura Gabriel García Márquez, che andava a dire che da ragazzi mettevano i soldi da parte loro per venire a Roma ad ascoltare al centro sperimentale romano Zavattini, per cogliere, diciamo, in un certo senso per cercare di rubargli, no? È impossibile, il segreto della sua fantasiosità, dei suoi soggetti, delle sue invenzioni. Senti, per quanto riguarda, ricordiamo questo appuntamento all'Amod, via Ostiense, raccontaci un po' come si svilupperà questo incontro alle 17:30 di lunedì. Beh, ci sarà l'autore, che è Gualtiero De Santi, che insieme a me credo sia uno dei più antichi fan di Zavattini, che ha già scritto proprio un libro intitolato Zavattini scrittore. Poi ci sarà Sinibaldi, che tutti conoscono come presidente della RAI, della radio, e poi Vittorio Vita, che ha conosciuto Zavattini, che è un politico del PD e che rappresenta ufficialmente il centro audiovisivo, no? Tra parentesi, anche questo centro l'ha fondato a suo tempo Zavattini. L'ha fondato e poi ne è stato il presidente. Dunque leggerò dei brani anche dal libro, e poi soprattutto parleremo del personaggio, perché che voi l'abbiamo conosciuto, frequentato per anni, e dunque c'è un'aneddotica meravigliosa anche proprio sulla persona, sulla sua intelligenza. Dunque io mi aspetto che vengano i giovani, molti giovani, spero. Bene, Silvana, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. E io ringrazio te, certo, alla prossima. Ci sarà un altro Zavattini prestissimo, perché ormai lui gira impazzito per tutto. Ne parleremo. Ciao Silvana. Grazie, ciao. Silvana Cirillo, per parlare della presentazione del libro Zavattini e la radio, lunedì 19 ottobre alla Fondazione dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico in via Ostiense qui a Roma. Ritroviamo Patrizia Salvatori, curatrice della rassegna Alice ad Alphaville Saddice. Ci sei, Patrizia? Buon pomeriggio a tutti. Oh, ben ritrovata. Sul comunicato però c'era un refuso, perché c'era scritto giovedì 14. Io ho immaginato fosse non fosse mercoledì 14, ma giovedì oggi 15. Hai ragione, Federico, abbiamo sbagliato. Ok. Allora, da oggi si parte oggi. Patrizia, dici un po' come nasce questa rassegna. Dunque, questa rassegna, Federico, nasce perché, appunto, come sempre Alphaville fa nel corso dell'anno, dedica un'attenzione particolare ad alcuni festival che in qualche modo sono significativi per il cinema, non soltanto italiano, per il cinema contemporaneo. Per esempio, non so, facciamo Mostri in Laguna contemporaneamente al Festival di Venezia per ricordare alcuni lavori di registi che magari a Venezia sono in concorso, facciamo il Toronto Movies per lo stesso motivo, facciamo Super Cannes e quest'anno ci è venuto in mente, visto che appunto il Festival di Roma, la Festa di Roma arriva al Pigneto appunto con Alice nella città, e non essendo però noi inseriti ovviamente all'interno di questa manifestazione. Ovviamente mica tanto, insomma, però comunque. È singolare, diciamo così, via. Che non abbiano considerato questa sezione della manifestazione per il Pigneto, che si svolge solo al Pigneto, un cineclub che è il più antico ormai, il più storico del Pigneto e uno dei più storici della capitale, che non siamo stati inseriti all'interno della programmazione che si svolge appunto al Pigneto, però noi non ci siamo scoraggiati. Certo. E abbiamo pensato, no, naturalmente no, ed abbiamo pensato insieme con la nostra federazione, la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, la prima antifascista a cui apparteniamo, ho pensato insieme, appunto, abbiamo convenuto di fare questa rassegna che in qualche modo segue la stessa linea di pensiero delle rassegne appunto precedenti, riguardanti e concomitanti con i festival. Quindi, mentre al Pigneto diciamo la conformità prevede Alice nella città, noi in maniera del tutto indipendente ed autonoma, così come nelle altre manifestazioni, abbiamo realizzato una rassegna dedicata sempre appunto alla figura al tema dell'adolescenza e della giovinezza, facendo un po' gli spiritosi sul titolo Alice ad Alphaville Saddice, quindi un'Alice nostra, un'Alice che però è di tutti, non soltanto nostra, e che porta in scena alcuni dei lavori più importanti di alcuni grandissimi autori del passato e qualcuno più del presente, che in qualche modo ci raccontano la storia dell'adolescenza e della giovinezza attraverso film vintage, film d'epoca, ma comunque film importanti, ecco, della storia del cinema. Bene. E quindi proprio in virtù di questo abbiamo fatto tutti insieme una sorta di mescolanza tra titoli del passato e titoli del presente tra i più grandi. Tanto per citare un esempio, faremo vedere il cortometraggio a firma singola di François Truffaut, I Monellacci, Les Mistons, che è appunto uno di quei cortometraggi davvero che insomma raccontano la storia del cinema e della Nouvelle Vague, ma facciamo anche a vedere il primo lavoro di André Tarkovsky, Il rullo compressore e il violino, il suo saggio di 26 anni all'uscita della scuola di cinema appunto di Mosca, film bellissimo sul rapporto tra un bambinetto che sta per diventare grande e appunto l'operaio del rullo compressore che contribuisce notevolmente a farlo diventare grande. Ma facciamo vedere anche la guerra dei bottoni di Yves Robert, che è uno splendido film sempre su famosi monellacci della storia del cinema, che appunto quando perdono le loro risse, le risse tra di loro, si tolgono i bottoni e quindi si capisce subito chi perde, perché rimane senza pantaloni. Senti Patrizia, sono 11 giorni, quanti sono i lavori che presenterete in questa rassegna? Guarda, i lavori sono 12. Sono anche alcuni legati, diciamo, a un'età più grande. Per esempio, Polina alla spiaggia di Romer sicuramente è dedicato ai ragazzi, e Leon è dedicato all'adolescenza giovane esperta di emanciparsi in maniera brutale. Sweet Sixteen di Ken Loach, lo dice il titolo stesso, sono i sedicenni e non solo quelli. E poi abbiamo pensato anche a un'adolescenza più grande, per esempio con Swimming in the Pool, un'adolescenza seduttiva, con la splendida poi protagonista Charlotte Rampling. Ma l'ultima cosa che mi dimenticavo di dire, ma non è ultima, è Sasina e il metrò di Grismale in seconda serata, solo perché noi lo facciamo vedere spesso, una sorta di Alice vera e propria, e il ballo delle ingrate, che è uno di quei titoli lontanissimi, quasi scomparsi dalla storia del cinema, che sono 20 minuti tra teatro e cinema dedicati all'emancipazione delle donne attraverso appunto lo sguardo felicissimo e tremendo per certi versi di Ingmar Bergman, e L'estate di Kikujiro, che è un film di Takeshi Kitano, dove c'è un bambino che cerca i suoi genitori, e la poesia di questo grande regista giapponese, che peraltro ha fatto pure cose ben più atroci, pensiamo a Brothers o Sonatino ad Arabi, e che invece in questo stare di Kikujiro trasforma uno zainetto in ali. Insomma, francamente, sono titoli da non perdere. E poi anche Focus, così piccole chiacchierate, per esempio sull'Alice di Jan Švankmajer, del regista ceco, autore di questo film incredibile, e letture, abbiamo veramente un po' di tutto. Sono due settimane piuttosto ricche, 8 giorni, 12 tra lungometraggi ed altro, insomma sono belle, ricche, prendono al cuore. Bene, Patrizia, tutto il programma chiaramente è sul sito internet e sulla pagina Facebook di Alphaville. Ma naturalmente sì, e noi vi aspettiamo tutti, ma soprattutto anche per rivedere questi veramente capolavori, alcuni proprio davvero scomparsi, e credo che sia interessante poi andare a riguardare come il cinema, che da sempre ha avuto un occhio particolare per l'infanzia, per l'adolescenza e per la giovinezza, l'ha bevuto talmente particolare che a distanza di così tanti anni c'è una universalità, diciamo, nelle immagini che vengono raccontate. Potevamo mettere molto di più, ma come dire, ci sarà tempo. Lo faremo un'altra volta, insomma. Ecco. Un abbraccio e alla prossima, Patrizia. Grazie Federico, grazie a tutti voi e un buon pomeriggio. Grazie. Ciao. A presto, ciao. Patrizia Salvatori, curatrice della rassegna Alice ad Alphaville Saddice, all'Alphaville Cine Club qui a Roma da oggi 15 fino al 25 ottobre. E ritroviamo anche Daniele Vicari, regista del mockumentary Uno Nessuno, alla 10ª edizione della Festa del Cinema di Roma, presentato il prossimo sabato 17 ottobre. Daniele, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Allora, io no, nel comunicato stampa è segnato come mockumentary, è giusta come definizione, Daniele? Sì, è giusta, ed è in realtà il prodotto di un laboratorio fatto alla Scuola di Cinema Volonté con gli attori. E in realtà io non sono il regista, ma diciamo ho coordinato questo laboratorio insieme a Imogen Kush e Paolo Giovannucci. Come nasce tutto? Nasce proprio dall'attività della scuola. Io sono direttore artistico da Giammaria Volonté, non faccio attività didattica diretta, no? Così coordino la scuola. E però alla fine di ogni biennio faccio uno stage per gli attori. Sì. Nell'ambito di questo stage realizziamo sempre qualcosa, e questa volta è venuto fuori un film di 50 minuti che in realtà come forma, proprio come linguaggio, utilizza il mockumentary. Senti, ci dai qualche indicazione per quanto riguarda la trama, la storia? Esatto, la trama è semplicissima, cioè c'è un gruppo di attori che deve mettere in scena un licenziamento all'interno di una fabbrica, un dramma, diciamo, che si svolge tutto dentro una fabbrica, E questo gruppo di attori, in realtà, mettendo in scena questa cosa, si trovano a vivere una situazione molto sgradevole. Quello che nel racconto dovrebbe essere il padrone della fabbrica, che è interpretato da Paolo Giovannucci, che è il loro coach, che sta svolgendo, che sta lavorando insieme ai ragazzi, e a un certo punto questo coach diventa un po' una specie di, diventa molto oppressivo e li strumentalizza, e non si capisce fino alla fine se li strumentalizza a fin di bene o a fin di male. E quindi la trama è questa qui, si mescolano due livelli di realtà diversi, la fabbrica e il lavoro dell'attore. Senti, com'è stato il lavoro? Tu hai coordinato un po' tutto quanto, diciamo il lavoro grosso l'hanno fatto gli allievi. Come vi siete relazionati? Come è stato lavorare insieme? Lavorare con gli allievi di recitazione è un grandissimo privilegio per un regista, perché uno vede proprio sul nascere quali sono le pulsioni fondamentali del lavoro dell'attore, quali sono le caratteristiche e quali sono anche le difficoltà. E quindi il lavoro che abbiamo fatto è proprio impostato su questo, cioè sul limite. Il limite tra realtà e finzione, tra vero e falso, tra personaggio e attore. Lavorando su questo, in questo limite, siamo riusciti a far fare a questi giovani attori un percorso molto complesso che normalmente si fa in anni di lavoro. Sì. Questo percorso anche rischioso, tra virgolette, cioè, e questo poi l'abbiamo anche messo in scena in questo piccolo film. Mm-hmm. È rischioso nel senso che si può perdere completamente il controllo. Nel momento in cui si perde il controllo, non siamo più nell'ambito dell'espressione artistica, ma rischiamo di finire nell'ambito della cronaca, e quindi il lavoro è stato tutto incentrato su queste limitazioni, su queste difficoltà, sulla difficoltà di passare dalla realtà alla finzione e di tornare indietro. Daniele, che impressione tu, insomma, già sei regista di un certo corso e hai avuto a che fare con attori e attrici cinematografiche. Che impressione hai avuto dall'incontro con questi giovanissimi attori? Allora, la Scuola Volonté ha ormai 4 anni ed è quello che si è appena concluso, è il secondo biennio. E io ho sempre, appunto, mi sono sempre relazionato soprattutto con gli attori della scuola. Sì. E devo dire che, come accennavo prima, è un'esperienza straordinaria, perché i giovani attori sono indefiniti, non hanno ancora capito bene quali sono le loro caratteristiche anche personali. Sì, e quindi vedere delle persone crescere, conoscersi, mettersi in gioco con una freschezza, diciamo, che ha ancora a che vedere con un'idea così quasi infantile del lavoro, è veramente bello, perché si tocca con mano il fatto che la recitazione, il mettere in gioco il proprio corpo, la propria voce, la propria interiorità per un pubblico è l'elemento fondamentale di tutta quella cosa che noi chiamiamo spettacolo, quindi cinema compreso. È un privilegio enorme per un regista. Senti, questa spiegazione definisce anche un po' quella che è stata la scelta del titolo? Sì, uno nessuno, nel senso, è un po' pirandelliano, no? Uno sì. Nessuno 100.000, cioè un attore è qualcosa nel momento in cui recita, si regala un personaggio, e poi nel momento in cui finisce il film non è più nessuno. Un attore è qualcuno quando finisce sul giornale, ed è nessuno quando nessun regista lo sceglie. Un attore è qualcuno quando riesce ad esprimersi, ed è un essere umano che ha problemi di lavoro quando non riesce ad esprimersi, cioè è insieme tutte e due le cose. Un attore è uno e nessuno. Mm-hmm. E questo ci sembrava il titolo giusto per raccontare questo statuto ambiguo dell'essere attore. Dopo la presentazione al festival, alla Festa del Cinema di Roma, che tipo di circuitazione avrà, Daniele? Non ci abbiamo ancora pensato, cioè noi sicuramente lo posteremo sul sito della scuola, perché sì. Ancora abbiamo fatto nel primo biennio tutti i lavori dei ragazzi, li rendiamo pubblici. Adesso vediamo anche come reagisce il pubblico alla Festa del Cinema, perché se questo lavoro può avere una qualche storia sempre nell'ambito della circolazione culturale, perché noi la nostra scuola non è a fini di lucro, per cui non possiamo metterli sul mercato i prodotti. Sì. Sicuramente lo utilizzeremo per far conoscere anche il lavoro che facciamo a scuola. Bene, allora Daniele, un abbraccio, ricordiamo Uno Nessuno sabato 17 ottobre all'interno della 10ª edizione del Festival del Cinema di Roma. A risentirci presto. Grazie, grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio Daniele, ciao. Grazie. Daniele Vicari, regista del mockumentary Uno Nessuno. Dopo Daniele Vicari restiamo in ambito della 10ª edizione della Festa del Cinema di Roma, sempre il 17 ottobre. Siamo in compagnia di Alessio Lauria, regista del film Monitor. Alessio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Comincio dicendo che non ho avuto modo ancora di vederlo, però mi incuriosiva tanto, una fantascienza italiana presentata ad un festival, e allora ne voglio parlare proprio con te Alessio. Raccontaci un po', per chi ci ascolta soprattutto, che cosa racconta Monitor? Allora, Monitor racconta di una storia d'amore tra due dipendenti di un'azienda un po' particolare. Siamo in un mondo distopico dove le aziende sono delle microcittà dotate di ogni comfort che sorgono al di fuori delle città, e tra i tanti servizi che offrono c'è anche la sala di ascolto, che è una specie di confessionale del Grande Fratello, una stanza dove i dipendenti possono entrare durante l'orario di lavoro e raccontare le proprie paure, sfogarsi i propri problemi. E ci sono dei dipendenti che di lavoro ascoltano gli sfoghi degli altri dipendenti tutto il giorno, stanno al di là di un muro, non possono vedere chi parla e sentono solo la loro voce, che non è riconoscibile, criptata. E la storia d'amore è tra uno dei dipendenti che ascoltano, che si chiamano i Monitor, e invece una dipendente ascoltata. E com'è nato tutto? Nasce da un concorso, sì, promosso dal premio Solinas in collaborazione con Rai Cinema, dove si chiedeva di scrivere un soggetto per lungometraggio che contemporaneamente fosse, per un lungometraggio low budget, con un budget stimato di 200.000 euro, però insieme che in qualche modo sperimentasse a livello del racconto. Quindi la sfida era proprio questa: scrivere qualcosa per il low budget che costasse poco, ma non raccontare una storia ambientata nel mondo che conosciamo. Quindi noi ci siamo inventati appunto questa azienda, abbiamo unito, come dicevo, una specie di confessionale dei reality show e il mondo aziendale, quello contemporaneo, e io e Emanuela Pinetti, l'altra sceneggiatrice, e abbiamo inventato questa storia, che poi fortunatamente insieme a un altro progetto ha vinto, e quindi ha vinto la borsa di sviluppo per scrivere la sceneggiatura, e poi il nostro progetto ha vinto anche poi la realizzazione con il budget messo a disposizione da Rai Cinema. Quindi la T-Time si è incaricata della produzione esecutiva del film, e insieme agli studenti dello IED, che hanno collaborato moltissime fasi della post-produzione, abbiamo portato a termine un progetto che è stato, per il percorso che c'è stato, è stato molto interessante, molto formativo per me e per tutti. Senti, dal tuo racconto e dal titolo si evince un po' anche dal fatto che hai parlato di fantascienza distopica, come soggetto fondante la solitudine e un po' la dipendenza dal digitale. Sì, diciamo che il film che abbiamo scritto io e Emanuela tratta proprio questi temi, però diciamo senza ancorarsi proprio esattamente al modo in cui li affrontiamo quotidianamente, ma raccontando la storia di questi due personaggi in un mondo appunto distopico, in un mondo possibile. Sono persone molto sole, che poi visivamente noi le vediamo comunicare divise da un monitor e da un muro, e soprattutto le vediamo che cercano insistentemente, nonostante siano persone sole, comunque la solitudine e la privacy, quindi le vediamo, li vediamo far parte di un mondo dove comunque le informazioni che loro danno vengono usate per tanti scopi, però per loro è anche impossibile tenerle celate, ma non solo, diciamo che come succede spesso a noi in quest'epoca di social network, siamo noi stessi che, dando le informazioni, consapevolmente collaboriamo al fatto di essere controllati, e quindi il film tratta proprio di questi temi abbastanza attuali, penso. Sì, sì, sì. No, infatti notavo questa riflessione che stavi facendo, sicuramente sullo spionaggio relativo alla privacy, ma anche d'altro canto da quest'ansia di esposizione che le persone dimostrano soprattutto a livello di social network. È molto interessante questo aspetto, Alessio. Senti, visivamente ma anche concettualmente, quali sono stati i vostri riferimenti nell'universo della fantascienza cinematografica? Allora, sì, innanzitutto un po' per gusto personale e un po' anche per esigenze di budget, abbiamo optato per una sobrietà che riguarda la regia, quindi non abbiamo voluto e non ci siamo nemmeno potuti permettere grandi virtuosismi. Io poco prima di girare avevo visto un film che vinse al Sundance qualche anno fa, che si chiama Another Heart, che racconta anche lì di un mondo, di una storia d'amore sullo sfondo di un mondo distopico. Non c'entra molto a livello di contenuti con il nostro film, però sicuramente sono stato influenzato dallo stile di quel film. Mm-hmm. La fotografia, vabbè, è un paragone un po' esagerato, però avete una predominanza di un colore che è il verde, poi per chi vedrà il film se ne accorgerà. Non so, forse guardare Gattaca, anche se è un film di tutt'altra fattura e con tutt'altro budget, è un film insomma famoso americano, diciamo che sicuramente mi ha influenzato in questo senso. Lì ricordo che c'era una predominante gialla molto forte, e penso che insomma le influenze vengano soprattutto da questi due film. Senti, per quanto riguarda la circuitazione dopo Roma? Allora, dopo Roma il film sarà visibile sul canale di Rai Cinema Channel, perché questo è un progetto che nasce finalizzato alla produzione di un web movie, quindi anche la durata del film, come è stato concepito e tutte le sue componenti transmediali e crossmediali riportano a questa destinazione finale che è il web. Poi noi abbiamo avuto la fortuna di poterlo presentare nella sezione Panorama di Alice nella Città, quindi in un contesto molto prestigioso. Il film spero che farà un giro per festival, ce lo hanno già chiesto per altri festival dopo questo. Però diciamo finirà su web, ecco. Bene, allora ci lasci anche i riferimenti internet per saperne di più, Alessio? Assolutamente sì. Allora, il sito è www.monitorfilm.it, dove c'è tutto, ci sarà il link, ci sarà il rimando al link del film sul canale di Rai Cinema Channel, ci sono tutte le informazioni, le foto di scena, il trailer e i teaser. E poi c'è anche la pagina Facebook, sempre costantemente aggiornata, che si chiama Monitor il Film. Bene. Alessio, un in bocca al lupo e a risentirci alla prossima. Grazie mille e buona continuazione. Grazie davvero. Ciao. Ciao. Alessio Lauria, regista del film Monitor, presentato alla 10ª edizione della Festa del Cinema di Roma sabato 17 ottobre. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Peter Marcias, regista del film La nostra quarantena, in uscita in sala oggi giovedì 15 ottobre. Ben ritrovato, Peter. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, ci eravamo sentiti tempo fa per un tuo lavoro precedente, questa volta un film che è già uscito in Sardegna e da oggi nel continente, La nostra quarantena. Raccontaci un po' di questa storia, Peter. Ma guarda, è un film che nasce da un episodio di cronaca, perché avevo letto su un quotidiano locale di questa nave bloccata nel porto di Cagliari. Allora da lì mi è venuta subito l'idea di documentare, per un documentario, per essere sincero. Però poi alla fine, dopo lunghe interviste, mesi e mesi passati con i marinai nel porto di Cagliari, ho voluto ampliare e, come dire, inserire anche una parte di finzione, dove un insegnante, Francesca Neri, invia appunto un giovane per studiare questa vicenda. Era anche il modo per parlare della situazione lavorativa dei giovani, delle problematiche attuali del lavoro, che non c'è purtroppo. Senti, il documentario quanto ti aveva tenuto impegnato e che realtà hai scoperto poi frequentando questi marinai? Il documentario mi ha tenuto impegnato per alcuni mesi. La realtà, io purtroppo mi aspettavo una protesta forte da parte loro, perché come dire, abituato anche nella mia terra, ci sono tantissime proteste per i minatori e i pastori e tutte le cose, però loro invece attuavano una protesta molto morbida, una protesta pacifica, insomma, stavano fermi ad aspettare, anche complice la giustizia, che giustamente loro avevano fatto, come dire, avevano messo gli avvocati, eccetera. Però mi sembrava strana questa cosa, che loro stavano dentro una nave, bloccati lì, eccetera. Poi col fatto che ho studiato la vicenda in prima persona, ho visto che poi loro potevano anche scendere dalla nave, come dire, girare la città. Lì c'è stato un grande sostegno della città di Cagliari. Ecco, in questo senso cosa è successo a livello cittadino, come spiegavi, come espressione di solidarietà? Ma a livello cittadino c'è stata tantissima solidarietà, nel senso che le associazioni come la Caritas, la Stella Maris, che si occupa dei naufraghi del mare, e tanti altri liberi cittadini, tutte le mattine, tutti i giorni andavano lì a portare da mangiare, sostenevano anche con dei medici. C'era qualcuno che stava male, aveva dei problemi di cuore e tanto altro. C'è stata proprio una grande fratellanza, dunque è stato proprio un segno questo della città, che ha, come dire, allattato, per dirla anche in termine così spicciolo, queste 15 persone che comunque vivevano fuori dalla loro città, senza le loro famiglie, senza il minimo indispensabile come abbiamo tutti noi giornalmente. Oh, come dicevi, hai voluto allargare il discorso ai giovani e alle incertezze legate soprattutto all'attività lavorativa. Ecco, com'è la realtà isolana oggi, Peter? Ma la realtà isolana è la realtà italiana, cioè giustamente c'è tanta difficoltà a trovare un posto di lavoro, la Sardegna non è da meno rispetto alle altre regioni italiane. C'è forse un senso di forza, perché l'isola è un po' fortifica, e dunque forse c'è più passione, c'è più sentimento, ci sono più, però comunque rimane gravissimo il dato di disoccupazione giovanile, perché comunque questo è un dato internazionale ormai. Sì, tu parlavi delle vertenze dei minatori, dei pastori, ma i giovani continuano a partire, andarsene dalla propria terra? Guarda, abbiamo fatto questi giorni in Calabria tantissime proiezioni con i giovani. Io sì, sto dicendo, tantissimi vanno via, però sto dicendo, noi per, come dire, tirar su le nostre zone dobbiamo anche stare nei nostri posti e tirarle su noi. È un peccato lasciare la nostra terra, perché comunque si possono trovare le soluzioni. Io quando accennavo ai minatori, pastori, perché comunque mi ero fatto un'idea di questi marinai, mi aspettavo una protesta fortissima, cioè mi aspettavo loro barricati che non uscivano, con sciopero della fame, sciopero eccetera eccetera. Invece purtroppo, o per fortuna per loro, mi è stato anche forse la forza loro, loro hanno attuato uno sciopero molto morbido, molto semplice, come dire, da lì poi le associazioni e tutte la Caritas hanno dovuto a lavorare sugli uomini, perché comunque questa gente stava proprio senza nulla, e dunque era veramente difficile lasciarli così. Peraltro nel film loro lo dicono, cioè siamo fermati a Cagliari perché comunque è un porto felice, un porto da trattato di diritto marittimo, di convenzione, che comunque può sostenere i marittimi, forse capitato da un'altra parte, lo stesso in Marocco non avrebbero avuto tutto questo sostegno, anzi. Senti Peter, l'uscita è stata allora fissata prima in Sardegna e poi avete cominciato dalla Calabria, ora arrivate alle altre, ai grandi capoluoghi italiani. Come sono state accolte le prime proiezioni? Ma guarda, molto bene. In Sardegna il film sta ancora in programmazione, da oggi è 15, da 15 giorni, dunque un successo, perché comunque è un film, è un film d'autore, è un film, ricordo che è distribuito da Cinecittà Luce, però è comunque un piccolo film anche di budget, perché comunque è stato girato lì nell'arco di tanti mesi, abbiamo avuto la fortuna di avere Francesca Neri e Moisè Curia nei rispettivi ruoli dell'insegnante e del ragazzo. È un film che per adesso sta raccogliendo dei buoni consensi, anche la stampa nazionale, oggi è uscito un bellissimo articolo su Repubblica, Famiglia Cristiana e tanti altri. Abbiamo deciso di portarlo avanti pian piano, partendo proprio dalla città dove è partito il film, e però sta andando meglio, perché comunque forse un'uscita totale non avrebbe dato lo stesso riscontro. Senti, quante copie per questa uscita di oggi? Per questa uscita di oggi saremo presenti, siamo ancora presenti in Sardegna, in Calabria e su Milano, siamo al Cinema Beltrade, e da domani ci sarà anche Bergamo e altre date, cioè, che mi confermeranno oggi. Immagino che alcune proiezioni saranno accompagnate dalla tua presenza. Sì, soprattutto ce lo stiamo accompagnando, perché comunque, come detto prima, è molto molto bello, perché comunque anche raccontare cosa è successo a noi in prima persona, come è stato girare, come è stato parlare con i marinai, stare con loro anche sulla nave, cioè è proprio bello raccontare questo film, perché comunque non è solo un film, è anche un'esperienza di vita. Allora, da oggi nelle sale di tutta Italia, Peter, un abbraccio e ci sentiamo per la prossima. Grazie, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Peter Marcias, regista del film La nostra quarantena, in uscita in sala oggi giovedì 15 ottobre. Eccoci con un altro amico, Andrea Pierdicca, per raccontare di un progetto documentario che si intitola Viaggio tra terra e cielo, ma si articola anche su altri fronti, non solo cinematografico. Andrea, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti, grazie Fede. Allora, vi seguo sempre con piacere, è una campagna iniziata nella metà di settembre. Dici un po', Andrea, di questa nuova avventura. Allora guarda, semplicemente questa avventura è nata dal progetto precedente, che era la Zappa di Piedi, il videodocumentario di uno spettacolo teatrale che ha girato l'Italia per 2 anni, più di 100 date. Abbiamo fatto quella sintesi che poi avevate appunto mandato anche in onda, sì. Che lo spettacolo che attraversava insomma le campagne, intervistava i contadini. Una volta che abbiamo visto che una semplicità di narrazione di questo tipo, in realtà su YouTube abbiamo visto le visualizzazioni che aumentavano in pochi mesi, già a gennaio eravamo a 6.000 visualizzazioni, dopo 4 mesi oggi siamo a 12.000, e quindi abbiamo intuito che questa qualità di narrazione nella sua semplicità è una cosa che oggi è necessaria, serve dire le cose semplicemente in maniera molto comprensibile, ma al tempo stesso che riescono a far sintesi. E da qui è partita questa nuova avventura che è Viaggio tra terra e cielo, ovvero semplicemente un furgone camperizzato in quattro, io, Valentina Gasperini alla comunicazione, Andrea Villi consulente scientifico, Nicolò Vivarelli videomaker, siamo partiti in quattro il 15 settembre da Bologna, da Campi Aperti, per girare l'Italia, le campagne italiane, e in un mese siamo arrivati oggi a Bologna. In un mese abbiamo fatto più di 25 realtà agricole, abbiamo intervistato una sessantina di persone per ascoltare le voci di chi oggi lavora la terra in maniera sana, leale, quindi piccole realtà, agricoltura familiare, piccole aziende agricole, per sentire chi e come oggi ci si relaziona alla terra. Questo viaggio tra terra e cielo comprende anche, come dire, la dimensione del cielo, e quindi, per far sintesi, la sacra che attraversa il circostante, che attraversa quella che Papa Francesco, l'enciclica Laudato Si, la casa comune, e quindi capire anche qual è il livello, il grado di consapevolezza del rispetto dell'ambiente. È stato un po' una... Dimmi tutto. Nella zappa sui piedi vi concentravate sull'uso dei pesticidi, che poi rischiano di far sparire un insetto fondamentale che è l'ape. Qui invece l'avete, immagino, allargato lo spettro dei temi trattati. Assolutamente sì, quello che avevamo capito era questo, che avevamo iniziato con la zappa sui piedi un percorso che si concentrava, come tu hai detto, sui pesticidi, sulla malaria delle api, ed accennavamo all'agricoltura e al cibo. Ora, in questo viaggio invece abbiamo indagato, abbiamo ascoltato, abbiamo scoperto tutto quello che è in relazione a questo argomento. Se il centro possiamo intenderlo come l'agricoltura, quindi coltivare realmente, non è uno spot da Expo, e nutrirsi dei frutti della terra, tutto ciò che è legato a questa pratica, e abbiamo scoperto la molteplicità di argomenti che riguardano l'agricoltura. Poi in Italia è soprattutto un paese legato all'agricoltura e alla cultura, abbiamo cercato di creare dei figli, delle relazioni, ad esempio passando nelle campagne, attraversando anche le montagne, abbiamo trattato spesso l'argomento dello spopolamento che c'è stato negli ultimi 30-40 anni di alcune zone, di alcune periferie, di alcune campagne o montagne, dove le persone hanno abbandonato negli ultimi 40 anni letteralmente dei territori, quindi tutto ciò che da questo deriva. Perciò anche il problema della non cura dei territori, mancando il contadino che lavora la terra, che fa le acquifere, che pulisce i fossi, che in relazione col territorio c'è proprio il principio di quello che è evidentemente un inizio di un disastro, ma disastro letteralmente, perché come dire, il clima, come dire, tutto ciò che è legato alla ciclicità dell'esistere, e in alcuni posti è come se ci fosse letteralmente un abbandono, e quindi tutto ciò che deriva da questo abbandono. Abbiamo indagato, come dire, quello che è stato culturalmente un essersi dimenticati delle proprie radici, dei saperi, dei sapori, e quindi una sintesi all'oggi di quello che è un 30 anni, 40 anni di salto storico che c'è stato da una civiltà rurale che avevamo negli anni 50-60, con tutti i suoi saperi e con tutte le sue pratiche, l'avvento dell'agroindustria, il cambiamento di abitudini, il mito del benessere, e oggi qual è la situazione nella, se si può parlare ancora di civiltà contadina. Ecco, proprio a questo proposito, Andrea, due dati sicuramente saltano agli occhi. Uno, come ricordavi tu, lo spopolamento per quanto riguarda le zone rurali agricole, sempre meno sono per quanto riguarda l'estensione, e un'altra la stazionaria, se non crescente, disoccupazione giovanile. Ecco, in questo viaggio, in queste tante tappe, avete annotato anche dei segnali di controtendenza? Assolutamente, abbiamo notato che oggi molte persone hanno iniziato a praticare un cambiamento, quindi la nostra intenzione è quella di dar voce alla realtà e la racconta chi la pratica, chi fa ciò che dice, dice ciò che fa, quindi abbiamo ripreso, condiviso racconti di persone che magari prima lavoravano nel marketing, lavoravano nel mondo dell'elettronica, nel mondo della pubblicità, chi faceva il pedagogo, le realtà più svariate, che oggi si ritrovano a lavorare in campagna. C'è chi magari aveva la casa a Milano, ha venduto casa, ha comprato una casa e un po' di ettari nelle Marche, ci sono diverse, cioè delle declinazioni enormi oggi in campagna di persone che hanno fatto un reale cambiamento di vita. Chi è appena partito, chi è partito da 5 o 6 anni e comincia a raccogliere i frutti di questo, chi vorrebbe ma ancora non riesce a fare il salto, oppure chi non ha mai smesso, nonno, padre, il figlio che magari ha studiato agraria e alloggi coltiva la terra in maniera differente, con altri principi, con altri metodi. Però c'è un'umanità, una potenzialità enorme ancora, e molta di quella che abbiamo incontrato sta già praticando e sta già facendo un'esperienza di ritorno, non so se dire ritorno, ma sta già facendo un'esperienza di riappropriarsi di conoscenze, di pratiche, di metodi, e questo è anche un dato interessante, sì, toccare sì. con mano chi ha fatto questa scelta. Ecco, il vostro viaggio è stato un viaggio a tappe, un viaggio di ascolto ma anche di scambio. Ecco, in tutto questo il teatro che ruolo gioca, Andrea? Allora, questo progetto è a tre livelli. Durante questo viaggio noi abbiamo raccontato online nel sito www.radicinelcielo.it il nostro cammino. Quindi ogni giorno abbiamo caricato delle clip che raccontano gli incontri, le interviste, le condivisioni. Ogni volta venivamo ospitati a casa delle persone, quindi restavamo lì a cena, andavamo lì e ripartivamo l'indomani. In media abbiamo fatto più di 20 tappe, più di 60 persone incontrate. Quindi questa web story online è già sul sito ed è già, come dire, fruibile. Poi la seconda fase sarà di continuare ancora qualche altra spedizione verso il sud, che ci è rimasto ancora un po' scoperto, e quando avremo tutto il materiale creare un film documentario al cui interno, oltre ai contadini, oltre alle realtà rurali, ascolteremo anche ricercatori scientifici, anche professori universitari, anche scrittori, quindi indagare la campagna oggi su più piani narrativi. Questo film documentario avrà al suo interno anche le voci del passato, cioè gli antenati, cioè chi prima di noi ha già trattato e ha già riflettuto e ha già lasciato una testimonianza importante del rapporto tra uomo e ambiente, uomo e agricoltura, uomo e natura, il conflitto, città, campagna, eccetera, eccetera. Ne cito un paio giusto per dare un'idea: Tolstoi, Lao Tse, Shakespeare, i nativi americani, eccetera, eccetera. Poi, alla fine di questa seconda tappa artistica, arriverà naturalmente il teatro. Quindi dalla web story al cinema al teatro, più si va avanti più si ritorna indietro, troveremo al rito collettivo del teatro, quindi una drammaturgia scritta sulla base sia dell'esperienza fatta, dei racconti avvenuti, ma sia anche su una base di recupero di una letteratura importante che contempla molti dei punti della nostra indagine. Questo sarà quindi il prodotto finale, uno spettacolo teatrale di narrazione e musica che racconterà e farà un po' la sintesi di tutto questo. Andrea, un'ultima curiosità: gli incontri e le tappe, e come avvengono, come li decidete? Allora, gli incontri, abbiamo creato una tabella di marcia preventiva, nel senso che già noi tra luglio e agosto stavamo fissando il nostro percorso, quindi abbiamo telefonato a uno per uno a tutte le persone che avremmo incontrato, abbiamo fissato un calendario di viaggio come se fosse una tournée teatrale, sì. Invece di andare a fare spettacolo abbiamo fissato degli arrivi, dei soggiorni nel posto, dei tempi per l'intervista, siamo andati nei campi con le persone, tra gli animali, nelle stalle, e quindi era tutto già prefissato nel panorama di viaggio, quindi abbiamo seguito una tabella di marcia giorno per giorno, tappa per tappa, e gli incontri sono stati un po' scelti su una base, da una parte della mia esperienza decennale che attraversa l'Italia, le campagne, movimenti, associazioni, fatta con gli spettacoli precedenti, cioè tutto quel percorso che ho fatto fuori dai teatri, volendo portare appunto il teatro fuori dai teatri, quindi relazioni già preesistenti di realtà che ho toccato con mano, che ho delle cose che dico, questo dovrebbero sentirle tutte queste cose, tutti dovrebbero conoscere queste persone. Ecco, da lì nasce la volontà di ricollegare i fili. E poi, andando avanti con questo progetto, abbiamo conosciuto un sacco di persone, tipo, non so, Massimo Angelini, filosofo rurale, ed altri, che ognuno ci proponeva suoi contatti, delle sue conoscenze, abbiamo inserito anche delle novità che io per primo non conoscevo e che sono state meravigliose, perché poi tocchi con mano, come tipo, non so, faccio un esempio stupido, Etain e Martino, che vivono a Gubbio. Etain è arrivata in Italia negli anni 60, ha lavorato per una realtà di una multinazionale farmaceutica, poi dopo 10 anni ha costruito a Gubbio, vicino a Gubbio, una realtà agricola che è meravigliosa, ma devi andarla a vedere quella roba. Ilenia, 21 anni, in Toscana, ha cominciato con 50 metri quadrati di orto, dopo un anno è arrivata a 7.000 metri quadrati, lei semina, raccoglie, tutte le tre volte alla settimana con la sua macchinina va a fare mercato nei paesini della Valcecina. 21 anni, Giuseppe Begatti di Bologna, Crevalcore, da solo insieme a un aiutante, lui pratica biologico, ma realmente la logica del bio, su 17 ettari di terra con tanto di animali. Quindi a chi dice non si può fare, tu vedi come le cose invece si possono fare. Certo. E nel piccolo c'è un'esemplarità di cui il grande dovrebbe, come dire, avvedersi e prendere esempio. Un po' è questo, la misura d'uomo. Abbiamo cercato gli occhi, le mani, le empatie, persone oneste. E quando dici ma ci sono le persone oneste, basta solo dargli voce, andarli a cercare, perché non si mettono sotto i riflettori, no? Fanno il loro, stanno lì, ma dimostrano che è possibile farlo, che la terra, se la rispetti, risponde, e che è possibile fare economia e produzione di queste piccole logiche agricole. Veramente vai a salvaguardare, a far riprendere vita a un territorio italiano che è di una meraviglia. Cioè, abbiamo quest'oro in mano e lo stiamo lasciando andare via. Andrea, è stato come sempre un piacere, io ti abbraccio, ci diamo appuntamento per le prossime novità. Volentieri, grazie a te e grazie a tutti voi. A presto, ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao. L'attore Andrea Pierdicca sul progetto documentario Viaggio tra terra e cielo. Roberto Proia di Eagle Pictures sulla distribuzione del film Woman in Gold, in uscita in sala oggi giovedì 15 ottobre. Roberto, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, buongiorno, grazie mille per avermi chiamato. Ho avuto modo di vederlo il film, per chi ci ascolta lo raccontiamo per sommi capi, Roberto? Sì, è la storia vera di Maria Altman, la donna che portò in tribunale il governo austriaco per riavere dei quadri di Gustav Klimt, tra cui la famosa Donna in Oro, appunto Woman in Gold, che erano stati sottratti durante i raid nazisti e che di cui il governo austriaco si era appropriato e aveva esposto alla Galleria Belvedere. Maria Altman ritrova delle lettere dalle quali si evince che i quadri appartengono a loro, alla sua famiglia, e quindi porterà in tribunale il governo austriaco con un finale abbastanza sorprendente. Tutto vero, è tutto documentato. È tutto documentato e tutto poggia su una grande interpretazione femminile, Roberto. Sì, difficilmente si sarebbe potuto trovare un'attrice migliore di Helen Mirren per questo ruolo. Calcolate che Helen Mirren è una delle pochissime attrici a aver vinto il triathlon dell'acting, ovvero un Emmy, un Golden Globe e un Oscar. Lei in realtà ha vinto molto di più, lei ha avuto 13 nomination agli Oscar, 16 ai BAFTA, ha vinto una Coppa Volpi a Venezia, ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. Insomma, è un'attrice che non ha più nulla, diciamo, da dimostrare, se non appunto la capacità di rendere un ruolo così complesso quale quello di Maria Altman cinematografico. Infatti nel film lei è una Maria Altman da un lato molto, molto fiera, molto orgogliosa, molto rigida, dall'altro estremamente ironica. Ricorda moltissimo la Judi Dench di Filomena, anche lì si cercava la verità attraverso, si cercava di riabilitare il passato e c'era una strana coppia formata appunto da lei, da Dench e da Steve Coogan, quindi una coppia generazionalmente diversa. E qui abbiamo Helen Mirren che si fa aiutare da Ryan Reynolds, il suo avvocato, quindi un uomo di 30 anni più giovane di lei, ed è una una storia molto bella, e lei appunto è veramente straordinaria, tanto è vero che si parla dell'ennesima nomination all'Oscar per questo film. Oh, Roberto, è il caso, come poi viene anche indicato nei titoli di coda, che è simile a migliaia di altri casi che riguardano la restituzione di beni trafugati dai nazisti. Sì, ci sono moltissime opere che tuttora non sono state restituite al legittimo proprietario. Questa diciamo è emblematica, perché poi insomma più o meno si è letto sui giornali la storia va a lieto fine, però è una storia molto complicata, perché insomma portare in tribunale un intero governo che si vede sottratto un capolavoro che fa sì che che ha un indotto di turismo e di prestigio enorme, insomma non è stato facile. Il modo in cui ci riescono, e questo non lo rivelo, è un colpo di genio dell'avvocato che entrando in un negozio a Los Angeles ha un'idea che gli permetterà poi di vincere la causa, ma quando ormai tutte le speranze sembrano svanire. Questo è il vero twist del film, avviene a due terzi, quando l'avvocato trova la chiave per riuscire a portare a casa un risultato che era praticamente insperato. Ecco, l'alto valore simbolico di tutta questa vicenda è che questa donna ha lottato, perché poi ricordiamo che la storia è vera, e per far riconoscere uno sfregio, una macchia nera del passato, e non vantando poi la proprietà fine a se stessa, perché poi avrebbe consentito comunque la fruizione dell'opera da parte della gente, insomma l'opera sarebbe rimasta esposta per la fruizione collettiva. L'importante per lei era l'elemento fondamentale, riconoscere che quest'opera era stata trafugata dai nazisti, e quindi anche ricordare quello che è il passato di una nazione come quella austriaca, che ha anche delle responsabilità in tal senso. Anche a livello personale però questa cosa gioca, perché nel film, poi tu l'hai visto, lei dovrà rivivere dei fantasmi del passato che aveva scacciato andando a vivere in California. Deve ritornare a Vienna e riesumare questi fantasmi, affrontarli e sconfiggerli. Sì, è vero, come hai detto tu, alla fine lei ha fatto la scelta di dare il quadro ad una galleria. Il quadro è tuttora esposto alla Neue Gallery a Manhattan. Io sono andato a vederlo 3 settimane fa, tra parentesi, molto molto bello. E dando appunto la possibilità che comunque il quadro venga ammirato, ma era più che altro per lei una questione di principio che fosse fatta giustizia, per lei era fondamentale. Comunque parliamo di una donna anziana, quindi infatti lei poi è la vera Maria Altman, è deceduta a 92 anni, quindi comunque ha avuto una vita lunga, ma piena, come vediamo nel film, piena di strappi, il più grande dei quali sicuramente è stato dovuto ai raid nel ghetto ebraico di Vienna da parte dei nazisti. Diciamo l'opera rappresenta più che altro ciò che le è stato strappato dal nazismo con violenza quando lei era per più o meno 25 anni, insomma si era appena sposata ed è dovuta scappare in America proprio per evitare di andare a finire male, ecco. Sì. E la restituzione dell'opera è una sorta di chiusura, come fare finalmente una chiusura con tutto ciò che l'ha tormentata fino alla sua età adulta, ecco. Soprattutto ecco il ruolo giocato dai suoi stessi concittadini è stato forse uno degli aspetti più dolorosi di questa vicenda personale. Roberto, da oggi nelle sale in quante copie Woman in Gold? 190 copie. Beh, una bella uscita. Sì, no, a Roma poi è presente veramente dappertutto, è un'uscita a tappeto, perché comunque un film che l'esercizio ci ha chiesto molto, un film che è andato molto bene negli Stati Uniti. Pensate, c'è un aneddoto: negli Stati Uniti il film è uscito soltanto in 195 copie, perché doveva essere un'uscita un po' piccolina. Poi a un certo punto c'è un sistema di rilevazione del gradimento alla fine del film, che si chiama Cinema Score, ha avuto il massimo massimo dei voti, è quel che ha convinto Harvey Weinstein a passare da 150 copie a 1500 copie e poi a 2000 copie. Quindi il film, diciamo, è stato voluto dal pubblico ed è questa è una storia molto bella in un momento in cui comunque i film solitamente vengono sparati tutti il primo weekend, il pubblico non fa neanche in tempo ad andarli a vedere. Ecco, noi abbiamo pensato di fare un'uscita invece degna di questo film, poi lei è venuta a Roma, lo ha promosso molto bene, è stato tutto molto bello, quindi e il film c'è, il film è valido, il film piace a giovani, vecchi, piace a uomini, donne, è un grande, come dicono gli americani, crowd pleaser, cioè un film che piace molto alle folle. Roberto, un abbraccio e alla prossima. Grazie mille ragazzi, buon lavoro. Ciao. Roberto Proia di Eagle Pictures sulla distribuzione del film Woman in Gold in uscita in sala oggi giovedì 15 ottobre. Ritroviamo Francesco Melzi Derilde di Good Films sulla distribuzione del film The Lobster in uscita in sala anche questo oggi giovedì 15 ottobre. Francesco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Allora, Lobster, ho avuto modo di vederlo in proiezione stampa, raccontiamo un po' a chi ci ascolta questa storia? Sì, The Lobster è la storia di un gruppo di persone che viene rinchiuso in un albergo nel nord dell'Irlanda e viene fondamentalmente le persone rinchiuse nell'albergo vengono obbligate ad accoppiarsi tra loro, a innamorarsi tra loro, devono farlo nel giro di 45 giorni, mi sembra, pena la trasformazione in un animale di propria scelta. E i protagonisti sono obbligati a trovare l'amore. Questa società obbliga i componenti a trovare l'amore entro 45 giorni e ad accoppiarsi. Anche perché se verranno trasformati in animali, poi saranno cacciati dagli stessi esatto. Ospiti di questo albergo. Alcuni di questi diventeranno resistenti, fuggono tra questi Colin Firth. Tra l'altro gli attori del film sono tutti interpreti fenomenali, perché sono Colin Farrell, c'è Rachel White, c'è Lea Seydoux, un cast fenomenale. Il film ha vinto, come sapete, il premio alla giuria all'ultimo Festival di Cannes. È un film molto particolare. Sì, infatti notavo una fantascienza piuttosto cupa, si affrontano due fanatismi, due fondamentalismi, da un lato una società che ti obbliga ad essere in coppia e dall'altra questi resistenti che invece hanno il vincolo di rimanere single a tutti i costi, insomma. Esatto, rimanere single, cioè, come reazione a questa società che obbliga la gente ad accoppiarsi, gli altri fanno decisioni invece che puniscono quelli tra loro che si accoppiano. Senti Francesco, che tu sappia, che cosa c'è all'origine del film, della sceneggiatura? Guarda, Lanthimos è un regista unico nel panorama mondiale, direi. Sì. Quindi si è parlato anche di un'idea politica alla base del film, politica, diciamo, attuale, anche visto le condizioni in cui verso il paese d'origine di Lanthimos, la Grecia. Non lo so, credo che sia una visione molto originale delle relazioni che lui ha tirato fuori così dal cilindro, senza però veramente un legame con l'attualità politica attuale, ecco. Un film piuttosto internazionale, a partire dalla regia per finire agli interpreti, e che tipo di risposte ha avuto in giro per il mondo, Francesco? Dunque, a Cannes è piaciuto moltissimo, ha avuto critiche fantastiche, ha preso il premio della giuria, che è un premio importantissimo ovviamente, è stato lodatissimo ed è molto amato dai fratelli Coen e da grandi registi come Wes Anderson, ha avuto critiche fantastiche in tutti i paesi del mondo, negli Stati Uniti. In Italia devo dire che divide molto la critica. Sì. Ed è un film che comunque divide, nel senso che è un tipo anche di humor nero che può dividere l'audience, quindi ci sarà gente che lo amerà molto e altri che saranno un po' storditi e dal film, ecco, questo certamente. Io lo trovo un film straordinario, con tra l'altro anche a livello tecnico, con una musica fantastica, interpretazioni fantastiche, fotografia bellissima. Lo trovo un film importante da vedere, e tra l'altro è un autore che si sta affacciando in Italia, non credo che non sia neanche mai stato distribuito l'anno. Sì, infatti. Quindi è la prima volta che si può vedere, è già un autore di culto, ecco. Sì. Quindi penso che valga la pena vederlo, ma penso veramente che dividerà, e sono curioso anche di vedere i risultati del film nei prossimi giorni. Sì, quantomeno insolito ed originale, questo sicuramente a me ha molto intrigato. Senti Francesco, in sala da oggi in quante copie? Saremo a 50 di copie più o meno in Italia. Io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie mille, grazie. Ciao. Ciao. Francesco Melzi Deril di Good Films sulla distribuzione del film The Lobster, in uscita in sala oggi giovedì 15 ottobre. E troviamo ora Lia Polizzotti, curatrice di Conversazioni Video 2015, Festival Internazionale di Documentari su Arte e Architettura, alla Casa dell'Architettura qui a Roma dal 19 al 23 ottobre. Lia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico, grazie a te e alla redazione. Allora, raccontaci un po' intanto come è nata quest'idea, questo festival, e poi le caratteristiche che lo animano. Il festival è giunto ormai alla sua, di fatto, alla nona edizione, la terza che si svolge alla Casa dell'Architettura. E in passato sotto il nome di Festival di Palazzo Venezia si svolgeva appunto a Palazzo Venezia a Roma, poi ha avuto un'edizione milanese e infine è approdato alla Casa dell'Architettura come festival appunto specifico di documentari su arte e architettura. E è un festival ad ingresso gratuito che svolgendosi alla Casa dell'Architettura permette anche di ricevere crediti formativi professionali, lo dico per un pubblico di architetti che volesse venire, sa anche che può richiedere i crediti. Sì. È un concorso di documentari appunto su arte e architettura. I film in concorso sono 15, divisi nelle due categorie, e accanto ai film abbiamo voluto anche inserire alcuni progetti speciali che diciamo a cavallo tra arte e architettura portano degli esempi di utilizzi sperimentali o innovativi dei vari linguaggi. Come film di apertura abbiamo scelto due film che in un certo senso rappresentano le due caratteristiche fondamentali del festival, quindi un film su Jan Fabre che in questi giorni sarà a Roma per uno spettacolo a Roma Europa Festival, e quindi abbiamo voluto diciamo aprire con un film di Giulio Boato che ripercorre proprio attraverso le parole di Jan Fabre stesso e delle altre interviste tutto il suo percorso artistico. E per la sezione invece architettura apriamo con un film su Eileen Gray. Eileen Gray, architetta e designer, moglie di Jean Badovici, che collaborò moltissimo con Le Corbusier, ma di fatto poi estromessa in un certo senso dalla storia ufficiale dell'architettura. Quindi questo film che nasce anche in seguito ad una grande mostra realizzata su di lei a Dublino ha proprio il merito di riportarla in auge e di raccontarci anche come mai è stata diciamo in un certo senso dimenticata tra virgolette dalla storia ufficiale. Senti Lia, due curiosità. La prima è: come mai questo binomio arte e architettura? Diciamo che il festival iniziale di Palazzo Venezia raccoglieva documentari su tutto tutte le arti. Andando avanti nel nostro lavoro abbiamo trovato che specialmente tra l'arte e l'architettura c'erano dei punti di connessione molto interessanti. Un esempio, per esempio, su questo è proprio portato da un progetto speciale dell'artista Cristian Chironi, che sta lavorando ad un progetto residenziale negli edifici realizzati dalle Corbusier, che lui vive per un mese e allestisce una sua mostra all'interno dell'edificio e in un certo senso riscopre l'architettura di Le Corbusier, invitando le persone, i passanti, gli amici, ma anche veramente persone che non conoscevano per niente quell'edificio, a visitarlo in una nuova veste. Quindi abbiamo trovato, diciamo, nelle relazioni tra l'arte e l'architettura, diciamo, un terreno molto fecondo, e quindi ci siamo appassionate a questo settore. E l'altra riguarda i formati. Che minutaggio hanno queste opere? Si va dai corti ai lunghi? Sì, ci sono film di 5 minuti come anche di più di un'ora. Per noi, diciamo, non ci sono vincoli sulle durate. Il racconto lo consideriamo, diciamo, un racconto a sé stante, che può durare anche 30 secondi, se è in grado, diciamo, in 30 secondi di esprimere il concetto. Certo. Lia, esiste un archivio fruibile delle edizioni precedenti? L'archivio esiste, è fruibile, diciamo, al momento su richiesta. Noi per studiosi, studenti, siamo a disposizione qualora volessero visionare delle copie, anche perché come festival le abbiamo, diciamo, in gestione in archivio con queste modalità, cioè a fini di studio. Quindi, diciamo, non abbiamo purtroppo ancora una postazione proprio aperta al pubblico 24 ore su 24, ma insomma, facendo richiesta possiamo accogliere questo tipo di esigenze. Ricordavi l'ingresso gratuito. Come è strutturata ogni giornata? Da che ora si comincia? Cominciamo alle 18 tutte le sere, finiamo entro le 21:30. Raccomandiamo di arrivare un pochino prima dell'inizio della serata, chiaramente per trovare posto in sala. Allora ci salutiamo ricordando anche un sito internet per consultare la programmazione. Sì, noi siamo su www.artdocfestival.com o anche sulla pagina Facebook Art Doc Festival. Ci sarà poi giorno in giorno tutta la programmazione, serata per serata. È prevista anche la presenza degli autori in alcuni casi? Sì, quest'anno abbiamo molte adesioni, vengono moltissimi registi e anche, appunto, ospiti che introdurranno le varie proiezioni, dialogando con i registi e anche un po' suscitando il dibattito nel pubblico. Benissimo. Lia, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie ancora a voi, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Lia Polizzotti, curatrice di Conversazioni Video 2015, Festival Internazionale di Documentari su Arte e Architettura, qui a Roma, alla Casa dell'Architettura, dal 19 al 23 ottobre. E con lei chiudiamo la trasmissione di oggi. Visionare il cinema su Radio Onda Rossa tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più sulla scaletta di quest'oggi e sulla trasmissione più in generale, basta consultare il sito internet della radio, che è ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. E l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dall'home page del sito c'è Ascolta la diretta. È tutto, un buon proseguimento.